Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Tanti e tanti anni fa, il mondo era fermo e abbandonato in un angolo buio dell'universo e nessuno riusciva a farlo girare, nemmeno io. I politici, oltre a non far capire la gente quando parlano, non capisco più niente neanche loro. La gente deve essere sempre un pochino sballottata tra un debito e l'altro, tra una preoccupazione e l'altra. E allora la gente si illude di essere felice e nel dondolio di questo sballottamento si addormenta e sogna il diavolo. Alcune parole nascono poveraccia, senza anima. La parola l'unico essere vivente che veramente mi ha fatto tenerezza ieri con la pantera nera, costretta a ruggire ogni volta che ci fosse uno stacchetto. Ma poi qual era il simbolismo della pantera? Chi è cilentano? La pantera sembra, che ne so, un vecchio orso spelacchiato. E dov'è questa pantera nera? Sembra la reclame di un'automobile, qualcosa di ruggente, di scattante, in netta antitesi con quella che è stata la serata di Cilentano, che è stata una serata che voleva ostigarci o perlomeno convincerci a non consumare, a risparmiare, a fare una vita parca, alla decrescita. E quindi fantasticamente ancora una volta il re della contraddizione assoluta e quindi l'unico vero grande indiscutibile profeta del nostro essere italiani, da una televisione commerciale ha lanciato un'invettiva contro la pubblicità che induce a consumare, quando in realtà bisognerebbe essere tutti più moderati nei propri consumi. 800240024. Oggi riflettiamo sul caso Cilentano, non tanto sulla sua nuova uscita televisiva, fantastico spettacolo su cui uno può prendere tutte le distanze possibili o può confermare la propria affezione per il vero grande cesellatore del luogo comune, il vero artista di ciò che è dato per scontato, talmente artista in questa direzione da confermare a tempi brevissimi ogni profezia su ciò che lui avrebbe confermato del suo essere sempre uguale a se stesso: il lento sorseggiare il bicchiere d'acqua, il fare la pausa ammiccante, l'amnesia finta, reale, simulata o reale botta di rincoglionimento, tutte cose che in realtà hanno un senso perché Cilentano, se non è sempre uguale a se stesso, non sarebbe Cilentano e non staremmo questa mattina a parlare di Cilentano. 800240024. Quanto in voi vedete, nella radice più profonda di voi stessi, qualcosa che ha dei caratteri di similitudine con Cilentano. Cilentano non è un fenomeno banale, Cilentano non è una costruzione artificiale, Cilentano è la nostra anima inquieta che ogni tanto emerge, per quanto noi prendiamo le distanze, per quanto rifugiamo, per quanto diciamo di essere diversi, noi siamo tutti un po' Cilentano. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ho chiamato un filosofo della scienza questa mattina per centrare il caso Cilentano. Dal tuo punto di vista, come potresti collocare filosoficamente la figura di Cilentano? Sai, io penso che Cilentano possa essere una lente attraverso cui rileggere la gente, il paese, le tendenze, i modi di rapportarsi alla realtà e alle idee, più che Cilentano in quanto tale, insomma. E sentendo anche quello che dicevi adesso, mi veniva in mente una vecchia frase molto discussa, molto interpretata, di Bertolt Brecht, no? Che diceva: fortunata quella società che non avrà bisogno di eroi, cioè che non avrà bisogno di persone che dovranno sacrificarsi per affermare dei valori. Io credo che se Brecht fosse qui oggi, almeno questo è il mio modo di leggere la cosa, direbbe: beata quella società che non ha bisogno di profeti. E che differenza c'è tra un eroe e un profeta? Beh, l'eroe agisce, no? Agisce tragicamente, porta all'estremo le sue azioni e ne paga le conseguenze. Ne è testimone fino alla morte, oltre la morte, perché i suoi valori vincono perfino la morte e attraverso la sua morte si affermano quasi come in termini assoluti. Al profeta bastano le parole e la gente sembra accontentarsi delle parole di un profeta. Dicevi tu, Cilentano è testimone di una parola che contraddice nei fatti, parla di decrescita da una trasmissione commerciale, eppure riceve applausi. E quindi sfortunata la società che ha bisogno di profeti, sfortunata la società che comincia a contentarsi delle parole e non guarda più un riscontro nei fatti. E ancora di più, il profeta è testimone vivente dell'appartenenza a una dinastia di immortali. Centano è sempre uguale, immediatamente uguale. Sì, dà dei segni di senescenza come tutti noi li diamo, ma in realtà sempre gli stessi stivaletti che aveva quando io ero bambino. Dicevo, mamma, mi compri gli stivaletti di Celentano? Dicevo, che schifo, ma sei pazzo. Beh, io ormai sono vecchio e lui ha ancora gli stessi stivaletti. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione. Grazie al piffero. Se io facessi un cartello con scritto viva la mamma del sorcio, andassi in giro per Roma e tutti mi applaudirebbero, direbbero bravo, bravo, bravo. Franco Bagnasco, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Franco Bagnasco è un grande antico amico, è un giornalista che per TV Sorrisi e Canzoni ha seguito in diretta da Verona Celentano. Qual era il punto di vista dall'arena veronese? Noi l'abbiamo visto in televisione, ma questa sorta di apoteosi con gli elicotteri, a un certo punto gli bombardamenti. Celentano ha dei luoghi comuni, è sempre sul ciglio dell'apocalisse e lui è lì pronto a fermare le truppe del male e a salvarci la vita. Ma in realtà nell'arena che era si respirava, fra i VIP tutti in prima fila, Bonolis, Mogol, erano tutti lì, e tanta gente comune, divisa equamente direi fra Umarels, c'era un grande pubblico di ultra settantenni, ma anche qualche giovane, molti giovani. Sì, c'era, come al solito, insomma, Celentano ha messo in scena se stesso, contraddicendo chi ha parlato prima. Volevo dire che questa società ormai forse non ha più bisogno di profeti, perché c'è stata proprio la divisione netta in scena, all'arena, tra la magia delle canzoni di Celentano, che sono riuscite ancora a sciogliere il sangue di San Gennaro, perché insomma alla fine il miracolo c'è stato con la musica, è stato veramente un trionfo, e invece si è percepita nettamente il distacco con la repulsione per il Celentano predicatore, che insomma che ha imbastito questa specie di sì, la gente ballarò. Ha fischiato quando ha cominciato a parlare con quella specie di ballarò con gli importanti colleghi Rizzo e Stella, con Morandi che si è seduto lì come se fosse all'osteria, con il grande economista Fitoussi. A un certo punto la gente si è rotta le palle e ha detto basta, canzoni. Questo quindi è la caduta anche del profeta. Il profeta rischia il linciaggio. È la caduta del profeta, perché non dimentichiamoci che Celentano all'ultimo Sanremo fu fischiato dopo una performance come questa, e gridò al complotto, disse no, questa è una cosa che alcuni dalla RAI insomma hanno voluto per creare il caso mediatico, lo scandalo eccetera. Invece ieri sera erano i suoi che l'hanno fischiato, era proprio il suo pubblico. Era non aveva più ragione di fare la vittima con nessuno, perché nessuno l'ha censurato. Non aveva più ragione, quindi è stata la prova del 9 che c'è una totale risposta negativa nei confronti del Celentano predicatore. E come abbiamo ammazzato i panicini e panettoni in questo paese, probabilmente forse è ora di finirla anche col Celentano predicatore. Però insomma la parte musicale invece è stata in arena un successo. Fermiamoci un attimo, sentiamo qualche ascoltatore, diamo subito modo di identificarsi con Celentano da parte di chi ieri l'ha seguito. Pierluigi. Sì, buongiorno. Quanto c'è di Celentano in lei? Ma io mi si specchio molto, perché come a parte a me che è un artista straordinario, è una persona comunque che tende ad andare controcorrente, anche se magari può avere delle... E contro quale corrente, scusi, ieri sera contro quale corrente è andato? No, nel senso, come ha detto lei prima, che... cioè, ma non ho visto carabinieri pronti a arrestarlo come Pinocchio al di fuori dell'arena, non ho visto attentatori che lanciavano bombe, non ho visto gente tirare la vernice a Celentano, non mi pare, è stata una serata tranquilla. Sì, sì, no, nel senso, quello che voglio dire è che magari, come detto lei prima, che la gente deve risparmiare, cioè deve spendere, invece lui dice di contrario, che bisogna risparmiare, ecco, in quel senso intendevo. Ah sì, beh, ha detto una banalità che tutti possiamo, anch'io posso dirle a lei, risparmi, sia bravo, e poi magari uscire e accendermi una sigaretta con un bigliettone da 100 euro. No, comunque anche l'economista francese penso che abbia delle cose un po' da riflettere, ecco. Sì, ma cose che normalmente dette, l'ha detta anche Ida Magli qui qualche mese fa, non è che sia una cosa originale o per questo, capisci, può dire, c'è piena libertà di espressione, ha detto cose per cui non rischiava certo la pubblica esecrazione, addirittura, pensi, c'è stato tanto spirito liberale che ha detto in una rete media, una televisione commerciale, che in realtà la pubblicità non dovrebbe istigare le persone al consumo, e non è successo nulla. Quindi non mi pare che abbia questo senso di profeta perseguitato. Luciano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, mi scusi se le rubo 10 secondi perché guardi, le faccio i complimenti per la sua padronanza della lingua italiana, che è un piacere ascoltare. Stia attenta, se no la seguo però. Prego, andava avanti. Niente, guardi, io sono rimasto delusissimo ieri sera, non ho guardato l'Herdner perché parlando di chiesa non me ne fregava niente. Vabbè, lei è masochista comunque, questo è un suo problema di parafilia. Bene. Allora ho ascoltato Celentano, io dico che Celentano, diciamo che questo personaggio che... Ecco, fra Lerner e Celentano, li metta a confronto fra loro, entrambi comunque hanno un senso profetico, un senso sì. di... Beh, e perché ha scelto, perché ha scelto Lerner fra i due? Perché avrei scelto Lerner, però parlavo di chiesa, ripeto, non me ne frega. Beh, c'era anche una bella scena parrocchiale con Fabio Fazio e guardi, poi quando vedo Ferrara, Renzi, vedo Ferrara mi viene il volto a stomaco, per cui ma adesso che c'entra? Lei sta facendo l'elenco di tutti i profeti del Nuovissimo Testamento. Perché bene, ha scelto Lerner? Appunto, perché non voglio rubare tempo agli altri. Allora, dico, se quest'Italia che Berlusconi ha creato, ce lo meritiamo tutto, perché quando ha parlato... Ma lei è un indivanato, scusi, lei sta facendo un discorso tipo da indivanato. L'indivanato è colui che cambia la militanza politica con lo spaparazzarsi sul divano, guardare Lerner. Ha mandato messaggini su Twitter mentre guardava Lerner, dicendo che è schifo l'Italia. No, ma dico... No, deve farlo, se no non è indivinato fino in fondo. Tommaso Labranca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ciao. Ti sei indivanato anche te? Io mai stato indivanato. Beh, ieri sì, su mia commissione hai dovuto vedere Celentano. Non l'avresti... Sì, ma l'ho visto in piedi. Ah, l'hai visto in piedi? Come si fa durante la messa. Insieme a Marta Cagnola, scommetto. Come? Insieme a Marta Cagnola. No, Marta non era qui, purtroppo. Lei mi mandava Twitter dicendo, stiamo guardando Celentano. No, io non sono su Twitter, me ne guardo bene dall'andare a scrivere. Dai, che snobismo, dai, su. No, proprio non mi interessa Twitter, cioè, perché devo leggere i commenti di persone che già scrivono sui giornali, già vanno in TV, già esprimono la loro opinione ovunque, anche su Twitter. Ma allora via, basta. Che sono dei grandi, probabilmente. Ma figurati. Senti, vediamo un po', torniamo a Celentano. Ne parliamo in una chiave diversa o diciamo quello che avremmo detto un anno fa, due anni fa, tre anni fa, sette anni fa? Ne parliamo nello stesso modo, ha fatto lo stesso programma, ne parliamo allo stesso modo, ormai non è un evento Celentano, Celentano è un rito, è appunto come andare a messa, sai già quali sono le parti della messa, e allora da lì c'è il finto bombardamento, il tavolo dell'osteria, lo sconosciuto che lava i bicchieri, le sue pause, i foglietti su cui scrive tutto perché ormai la mente, insomma, d'altronde l'età c'è, e poi soprattutto quel corpo di figuranti che non sa fare niente, non sa cantare, non sa muoversi, recitano malissimo... In certi momenti era uno spettacolo indecoroso, dal mio punto di vista. Eppure oggi i giornali ne sono pieni. Qual è la formula per cui il reiterare l'indecoroso comunque crea un evento? Vorrei capire qual è. Esiste sicuramente una pietra angolare per cui c'è un segreto in Celentano, perché nessuno oggi avrebbe ragione, noi per primi, di parlare di lui, perché potrei mandare una clip di 10 anni fa, sarebbero le stesse cose, anche le canzoni. Svalutation si riferisce alla lira, che ormai è parlare di archeologia. Eppure oggi ne parliamo, cerchiamo dei sensi profondi, cerchiamo una ridefinizione. Per quanto e in quanto ci ha contaminato Celentano, per cui non ne possiamo fare a meno. È una sorta di superstizione, è come una paura di un dio vindice che potrebbe farci cadere qualcosa in testa se noi evitiamo di parlare di Celentano. È come non andare a messa. No, è l'attesa, perché c'è Claudio Amori che appunto lo blinda, lo nasconde, lo chiude, lo sotto doppia mandata, quindi non lo fa parlare con nessuno, mandano le notizie fuori un pezzettino alla volta e uno spera che succederà qualcosa. Poi 9 milioni e più di persone, come è successo ieri sera, si piazzano davanti alla televisione e vedono esattamente la stessa cosa di Sanremo, di Rock Politik e del ragazzo della Via Group, perché sono 50 anni ormai che continua a ripetere le stesse cose. E non lo so, bisognerebbe veramente mobilitarsi tutti contro Celentano, dire basta Celentano, se vuoi fare il profeta esci, abbandona la tua reggia, abbandona la tua fortezza, vieni a vedere veramente cos'è il mondo, smettila di parlare di cose che non conosci. Lui vuol parlare di economia e non ne sa niente, di architettura e non ne sa niente, vuol parlare di tutto. Di ambiente e non ne sa niente. Di qualunque cosa. Cioè, e poi se ne sta chiuso lì in questa casa. Vabbè, però è lo specchio fedele della parte più detestabile del nostro spirito nazionale, essere competenti di tutto e non esserlo in nulla. Sì, ma almeno gli altri, cioè questa la filosofia da passport, cioè quelli che sono tutti i commissari tecnici della nazionale, tutti i primi ministri, tutti i presidenti della Repubblica, almeno sono fuori e vivono sulla propria pelle. Ma vedere Celentano che fa le lezioni di economia o addirittura si attacca a questa storia, io odio la decrescita. Per me la decrescita è la più grande presa in giro degli ultimi 150 anni. Sembrava una pubblicità del Viagra, al contrario. Io pensavo fosse uno spot, che a un certo punto, quando parlai di decrescita, fosse qualcosa di giustificatorio per qualche balsamo per senile rinvigorimento. Invece no, parla proprio di decrescita economica. Sì, sì, di decrescita economica, ma cose che non so che possono interessare. Ma infatti la gente ha fischiato, si è rotta le palle in maniera drastica. Stefano Morigi, come vedi, la branca ha sollevato dei punti assoluti in quali può riconoscere. A questo punto Celentano è un rito che però non porta più a nessun assoluto, nessuna trascendenza. È un rito che si fa stancamente, come le religioni quando arrivano nella loro fase ultima, la fase di pura esteriorità. Quando le religioni arrivano nella loro fase ultima, non provocano, semmai rassicurano. E Celentano è questo, è il timore che io prima manifestavo. Non era quello per cui una società ha bisogno di profeti. Io non dicevo che ha bisogno di profeti, dico che temo che si accontenti delle parole di un profeta. La cosa è molto diversa. E perché Celentano, a mio modo di vedere, ha successo? Perché non provoca per nulla, non è affatto un provocatore. Le cose che dice sono, come dire, ovvietà che consolano la gente, perché li rafforza la gente nei loro pregiudizi. Allora, quanto io più sono in grado di rafforzare la gente nei propri pregiudizi, evitando qualsiasi provocazione, in qualche modo ci si riconosce in una verità che sembra tale nella forma di un riconoscimento. Adesso io non voglio fare dei paragoni politici, non voglio tenermi assolutamente alla larga da questioni politiche, peggio ancora partitiche. Il successo di Grillo può spiegarsi sostanzialmente con categorie analoghe. È il fantasma dell'autentico, che è un'ideologia che è percepita come verità solo perché rassicura. Esistono dei precedenti nella storia del pensiero, di sbandieratori di fantasma dell'autentico. Tutte le formule populiste. Pensa a tutti quelli che hanno sventolato nella storia in maniera ideologica, si intende. La parola libertà, aveva ragione Flaubert come Celentano, libertà, parola per conservatori. Osvaldo, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio che c'è un eco fastidiosa. Sì. Niente, io volevo dire che state definendo profeta Adriano Celentano quando poi è uno semplice personaggio che lancia dei messaggi. Quindi, da profeta lo fa però, lui parla come? Di... sì, però non è che li lancia, usate quel sapone perché lava più bianco, lui vuole salvare l'umanità, si pone come salvatore dell'umanità, come portatore di valori assoluti. No, non si pone come salvatore dell'umanità, ma lancia dei messaggi come quello di chiudere i giornali cattolici perché i preti non parlano più infatti, del paradiso. Ma infatti è una cazzata di cui si è dovuto pentire e fare retromarcia. Questa è lei che dice che è una cazzata. No, lo dico. Chi dice chiudere i giornali dice che è una cazzata, comunque sia. È una sua definizione. Non è... No, no, mia, non lo dico e lo potrei sottoscrivere. Ma i preti non parlano più di paradiso? Sarà un problema dei preti, non è un problema mio. A me cosa interessa, scusi. Ognuno ha il suo paradiso. Se i preti non parlano più di paradiso, sarà un problema dei preti. Sanno loro che rappresenteranno non degnamente la loro funzione, ma non sono io che devo giudicarli. Chi sono io per giudicarli? Ma non lei, ma Adriano Celentano può lanciare. Infatti, non è nessuno. Ma è libero di lanciare un messaggio del genere. Ma, no? non è un profeta investito dal Padre Eterno di giudicare la Chiesa. Ma voi lo chiamate profeta? Chi ha detto che è un profeta? Lei è un perfetto discepolo del profeta Celentano. Lo vede come una religione, come uno che può esprimersi su valori assoluti senza essere nessuno, Osvaldo. E mi dispiace, ma è così. Lei è vittima del pensiero di Celentano? No, lei... Lei sarebbe disposta a fare qualunque cosa se Celentano glielo chiedesse? No, assolutamente. Celentano dice chiudete i giornali, dice c'ha ragione. Lei chiede il parere alle persone e poi le giudica secondo il suo parere. Io non sono un fan di Celentano, sto solo dicendo che una persona che lancia un messaggio diverso, nuovo... Ma diverso da cosa? Controcorrente da cosa? Chi è mai detto che i preti non parlano più. Ma se io dico i preti sono indegni, scendo in piazza, mi acclamano, ma è una banalità dirlo, è solamente banale. Uno... Perché è banale? Ma perché è banale? Io dovrei prima cosa dimostrare dignità nelle mie idee e controbattere con elementi concreti. Il prete, se è indegno, non posso giudicarlo io, lo giudicheranno le sue gerarchie. Chi sono io per giudicarlo? Quale perfezione di vita ho io per giudicare qualcun altro che predica male? Ma perché uno che ha un parere contrario a un qualcosa non lo può dire? Uno deve essere testimone di quello che dice. Quando parla di valori forti assoluti, essere testimone di quello che dice. Sono meglio che sta zitto. O di avere Morigi, che è un filosofo, argomenta con categorie del pensiero, perché l'ha studiato in questo caso. Se no è banalità, ognuno può dire qualunque cosa. Sono qui con un grande economista, Jean-Paul Fitoussi. Ci sono due problemi maggiori nella storia in cui viviamo. La prima è che la disuguaglianza è divenuta così grande che è incompatibile con la democrazia. Questo. E poi il secondo problema è che in Europa non siamo veramente più in un regime democratico. Abbiamo un sistema di governance. La gente qui sta battendo le mani, e poi comincerà a fischiare quando non ce la farà più. Parla Fitoussi come se parlasse, che ne so, Savonarola. Poi leggo su Wikipedia che è presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto di Studi Politici a Parigi, e anche fa parte del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia, Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa San Paolo. Non è proprio un signore che va con un saio in giro per le strade a predicare ai poveretti. Franco Bagnasco, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, che ha seguito in diretta dall'Arena di Verona. Hai già un primo commento sui dati d'ascolto che sono usciti nel frattempo? Sì, c'è il dato d'ascolto della serata, o solo quello che appunto di Celentano. Poi vedremo, sarebbe interessante capire che tipo di ascolto c'è stato nei momenti sermonici rispetto a quelli cantati. Questo purtroppo... Sì, adesso è presto, però, sì, saprà esatto. Oggi. Ho solo il polso in arena, e lì è stato veramente tremendo, sono stati cacciati via a fischi, questa è stata... cioè, tanto è stato un trionfo la parte canora, tanto è stato veramente gente che andava a far pipì, non viene più sopportato questo tipo di Celentano. Soprattutto però, la bellezza vincerà. A un certo punto hanno detto una di quelle banalità che, ti giuro, avevo degli attacchi di colite. Comunque. E Fitoussi che parla come l'ispettore Cluso, quindi è venuto... Sì, fa il Peter Seller, tutte, noi l'abbiamo detto, lo dicevano in Tonti Rocchetti e Valerio Rocchetti, ci sembrava Peter Seller, bellissimo era. Comunque ha fatto 8 milioni 910 mila spettatori, quindi praticamente 9 milioni di spettatori, con il 31,83% di share, quindi decisamente un buon risultato per Canale 5. Considera che c'era Renzi da Fazio, che tutto sommato è il nuovo che avanza, quindi diciamo il rottamatore è stato rottamato dal catetere e dal pannolone. Esatto. La prostata ha vinto su tutto, diciamo così, per un tema a noi caro. Esatto, la prostata ha vinto su tutto. Comunque, con un risultato così ci si può aspettare soltanto un ritorno. Secondo me accorceranno stasera il lungo blocco Ballarò predicatorio. Vengo a sapere che i due ospiti dovrebbero essere l'economista Beppe Scienza e Carlo Freccero stasera sul palco. Freccero anche lui con un saio sarà lì, non vedrà il momento. Ma Freccero è ancora un dipendente Rai, un direttore Rai, prende lo stipendio, va in giro ovunque facendo la vittima. Nessuno gli ha mai tolto lo stipendio in questi ultimi decenni, mi sembra, no? Evidentemente si può fare. Si può fare. E quindi no, penso che accorceranno questa parte, perché a questo punto si sarà reso conto anche lui che è un corpo estraneo, però a fronte di un ascolto del genere, insomma, indubbiamente con un ascolto del genere uno poi è tranquillo. E vince, il televisione, la regola è vince chi fa ascolto, il resto sono soltanto chiacchiere. Grazie. Tommaso Labranca, ricordo che è autore televisivo, conduttore radiofonico, ma ha scritto un saggio di cui abbiamo parlato con grande piacere, Astrakhan, la zia e l'estetica perbenista, edizioni Excelsior. Quanto c'è di estetica perbenista in questa parte di Celentano che però, ahimè, come vedi, alla fine la gente altro voleva, non ne poteva più di chiacchiere della zia con la pellicetta da Astrakhan. Ma Celentano è un grande perbenista, lui nasce in una famiglia di perbenisti, ricordo le prime interviste che ho letto dopo anni, in cui i giornalisti andavano a casa sua e vedevano appunto la specchiera, la cornice con la foto delle nozze, cioè proprio tutto il è monogamo da 200 anni praticamente. Monogamo, sì, anche perché non può uscire di casa. Come la maggior parte degli umarelli italiani, hanno le palle nel freezer messe lì dalla moglie, ma è normale. Ecco, lui è un po' il principe degli umarelli, soltanto che invece del pubblico di altri umarelli che sono lì a guardare i lavori della metropolitana all'Italia intera. Già a Chiasso non lo ascoltano. Non so se hai notato, ma a un certo punto ha assunto la tipica posa dell'umarelli con le braccia dietro la schiena, a metà dello show. È perché lo è, te l'ho detto, lui lo è dentro. E quindi essendo umarelli è anche perbenista. Poi, come tutti i perbenisti, a un certo punto vuole sconvolgere e allora invita l'economista francese, fa il finto bombardamento. Di Freccero questa sera che ne dici? Scontro fra titani. Dico lo stesso Freccero che ho conosciuto io anni fa, oppure come Paul McCartney è un suo sosia che va in giro. Non lo riconosco più Freccero, cosa va a fare? Non lo so, cosa potrà dire, cosa potrà aggiungere. Fermiamoci un secondo, sentiamo Antonia, finalmente una donna che esprime il parere. Antonia. Pronto? L'unica donna che ha telefonato che vuole partecipare. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ah, ecco. No, io parlo dall'altra parte della barricata, di quelli che abitano vicino all'arena e che per 10 giorni non ne potevano più di nafta, visto ecologista Celentano, di rumore, perché c'è veramente... Lei è una sdaura veronese che è indignata perché Celentano ha cambiato l'ecosistema della città. Esattamente, non si poteva più respirare nella via dietro e ci voleva la mascherina per uscire perché i camion di questo qui hanno intasato aria, rumore per 10 giorni, invivibile. La faccia del mare pulito e dell'ambiente sano. Infatti quello che parlava del cemento e dell'erba dove è andato a finire. Ma mi dica altri disagi fisici che ha avuto dalla presenza di Celentano a Verona. Intanto, a parte che anche lì c'era da programmare qualcosa di più come città, perché 3-4 eventi nell'arco di una giornata, di due, è impossibile, è la maratona, è Celentano. Beh, questo se la prenda con il sindaco, devo parlare soprattutto dell'impatto ambientale di Celentano su Verona. Sì, qual è stato? L'impatto Celentano, un rumore che loro provavano in arena e tutto il giorno era quelli che suonavano fuori, che facevano le coppie di Celentano, quelli che dentro, insomma, è stata veramente... E poi questo inquinamento da monossido di carbonio dei camion, dei gruppi elettrici. Sì, guardi, veramente una cosa indegna. Va bene, abbia un'altra serata, abbia pazienza, poi tornerete ai turisti che vanno a scrivere sul muro del finto balcone Giulietta Romeo e sarete tutti contenti. Alberto. Sì, buongiorno. Pronto? Si esprima velocemente. Niente, volevo dire che alla fine, secondo me, Celentano è stato il più onesto intellettualmente. Certo. Nel senso che Celentano ha fatto il suo spettacolo. È re degli onesti intellettuali. Fedele a se stesso. Fedele a se stesso, mentre il pubblico che è andato lì a fischiarlo, perché è andato lì, il pubblico sapeva chi è Celentano, sapeva come funzionano gli spettacoli di Celentano. È come la gente che telefona a Cruciani per lamentarsi che è aggressivo nei confronti dei radiospettatori. Beh, c'è una componente masochistica nel pubblico che gli piace sempre essere maltrattato, quindi crea contrasto con il suo punto di osservazione per avere in cambio schiaffi in faccia, questo è normale. È andato via Bagnasco, perché volevo sapere, molti mi scrivono che il biglietto costava 15.000 euro, mi sembra tanto sinceramente, mi sembra una cifra eccessiva. Paolo, buongiorno. Buongiorno, sì. Una cosa brevissima, secondo me un po' di gelosia da parte del mondo dello spettacolo nei confronti di Celentano, perché comunque alla sua età eccetera eccetera riesce ancora a fare uno spettacolo, portare persone, far parlare di sé, quindi secondo me noto un pochino di gelosia nei suoi confronti, anche perché il fatto che ripete, diciamo, canzoni del passato, eccetera, quello non vuol dire niente. Beh, erano bellissime canzoni quelle che ha cantato. Comunque anche i Beatles, allora, sono canzoni attualissime, anche se sono state scritte negli anni 70, perché comunque il messaggio è ancora un messaggio attuale, quindi non vuol dire niente che se parla della lira le parole non abbiano... Ma noi non abbiamo un punto di vista moraleggiante verso Celentano, non voglio censurarlo, siamo come un anatomopatologo che affonda le mani nelle viscere del cadavere e ne osserva i sintomi del decesso, solo questo facciamo assieme a Morigi. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano, iniziano bene, finiscono male, può capitare che li trovi a rubare. E fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non ci credo che tutti gli italiani sotterrerebbero l'amianto nei campi, infangherebbero il nome degli avversari al solo scopo di non averli lì davanti. E comprerebbero la partita agli arbitri, o incontro arbitri si farebbero comprare, racconterebbero bugie su una disgrazia, per l'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia di chi mi scrive con insistenza un SMS, un fautore di SMS, oggi il capo ti ha detto di sparlare di Celentano. No, nessuno me l'ha detto. E non sto sparlando, sto dando grande dignità a Celentano, commentandolo assieme a un filosofo della scienza che è Stefano Morigi in studio con me. È un fenomeno da osservare perché le persone che con me questa mattina stanno cercando di definirlo e ridefinirlo ancora una volta, come vedete, portano argomenti interessanti. Celentano è qualcosa da analizzare, fa parte del nostro costume, del nostro essere. Una persona che presenta sempre la stessa cosa e che comunque diventa argomento di conversazione. Non accade perché c'è un meccanismo pubblicitario, vessatorio, coercitivo che ci obbliga di parlarne. Nessuno mi ha obbligato questa mattina. Mi sono sentita di parlare di Celentano, ho fatto bene, perché tutti i giornali aprono con Celentano. La notizia è Celentano, il non detto di Celentano è la notizia, il ripetersi di Celentano è notizia, quindi nessun capo me l'ha detto. Ah, poi per l'aspetto leggendario che alleggia intorno a Celentano, continuano a scrivermi di questi biglietti da 15.000 euro. Reputo che sia impossibile, ma fa parte comunque della mistica che sta attorno a un predicatore come Celentano. Sentiamo Giampiero che ha 24 anni, mi interessa. Giampiero, buongiorno. Buongiorno. Lei è un giovane, come mai non guardava Fazio, non guardava Lerner e guardava Celentano? Io ieri sera ero all'Arena di Verona a vedere il concerto. Ah, lei era proprio a Verona. C'è andato apposta, è veronese oppure? No, sono di Pisa, quindi sono andato apposta. Sei andato in transumanza. Quanti eravate? Eravamo in tre e abbiamo pagato ognuno un biglietto di un euro. Ah, quindi come vede non è vero, 15.000 euro, sono le leggende. Dato che siamo studenti universitari, altrimenti non avremmo avuto la possibilità economica di farlo. Quindi era uno spettacolo aperto, anche molto democratico come... Esatto. E quindi, qual è la vostra impressione? Una generazione che vede Celentano, io l'ho visto Celentano, che ero molto più giovane di te, fare le stesse cose che fa adesso, quindi esiste un testimone che ci si passa di generazione in generazione. Che impressione ti ha fatto? L'impressione che mi ha fatto invece è stata in platea molto bella, soprattutto la prima parte delle canzoni, vabbè, quello in dubbio è stato trascinante anche emotivamente, ma anche successivamente il dibattito economico, anche negli spettatori è stato, diciamo, visto anche in maniera attiva, le persone partecipavano anche durante il dibattito. Poi successivamente, dopo l'entrata di Morandi, probabilmente le persone si aspettavano di nuovo che cantassero, e quindi anche il vocabolario un po' limitato dell'economista ha un po' spazientito le persone, però non ci sono stati, cioè i fischi sono stati davvero isolati. Diciamo che la resistenza gonadica faceva sì che a un certo punto bisognava tagliare, hanno insistito troppo, ma ci stava bene anche sì. Ci stava bene anche quello. Infatti anche Morandi ha cercato di riprendere la situazione in mano. Comunque io sono convinto che Celentano non sia un profeta che dice delle ovvietà. Io credo che appunto lanci dei messaggi che siano anche spunto di riflessione, perché altrimenti questa mattina non tutti i giornali avrebbero aperto la loro edizione con le sue parole, e che comunque anche le sue riflessioni non sono così scontate. Ecco, parlare di risparmio e decrescita si parla tanto in famiglia, ma all'interno delle televisioni e dei giornali non se ne parla così tanto. Ma, diciamo, ne parlano negli spazi preposti alla politica, alla discussione sui problemi sociali e economici, non ne parlano negli spettacoli musicali. Forse questa sorta di straniamento, di uscita dal contesto che la colpisce. Stefano Morigi, filosofo della scienza, cominciamo a tirare qualche conclusione dal tuo punto di vista. Colpisce che perfino in un ragazzo di 24 anni, che almeno idealmente dovrebbe avere altri riferimenti davvero rivoluzionari, trova conforto nelle parole di un conservatore di 40 anni fa, che era già conservatore 40 anni fa, no? Che era già contro il progresso, qualsiasi cosa questa parola voglia dire, 40 anni fa. E questo mi conforta nell'ipotesi da cui eravamo partiti, che talvolta bastano le parole per, come dire, rinforzare i pregiudizi, soprattutto delle persone, soprattutto in un momento di crisi, e che se le provocazioni intellettuali o meno, quelle che dovrebbero aiutare a pensare, spaventano, purtroppo le parole che consolano, vere o false che siano, coerenti o meno che siano con l'azione della persona che le pronuncia, sono purtroppo più efficaci. Tommaso Labranca, quindi abbiamo sancito il trionfo dell'astracan, sei stato profeta nel confermare e definire le profezie che oggi funzionano. Vedi, sono stato profeta anch'io, quindi mi aggiungo alla schiera di Celentano e tutti gli altri. Aspetto quindi che mi offrano una serata in diretta dalla... No, però seriamente, la telefonata di questo ragazzo, che è significativa, che impressione ti ha fatto? Io sono d'accordo con Morigi, in realtà conforta un grande conservatore e una persona che dice sempre le stesse cose da 50 anni. Ma sai, la telefonata non mi ha meravigliato, perché due settimane fa, passando in via Mecenate qui a Milano, dove ci sono gli studi della RAI, c'erano dei ragazzini, veramente di 10-11 anni, in bicicletta, che cantavano Il ragazzo della via Gluck. Tutte le parole, perché le sapevano tutte perfettamente. Per cui evidentemente il celentano musicista che entra e conquista, perché è innegabilmente un grande da quel punto di vista, alla fine poi ha anche una presa dal punto di vista della morale, della teoria, della filosofia alla celentano. E per cui non mi meraviglia questo, perché ti ripeto, si fa strada con le canzoni e arriva lì dove Grillo non arriva, perché Grillo non ha la canzone che arriva prima e poi c'è tutto il seguito filosofico, o neanche Jovanotti, perché Jovanotti non ha lo stesso potere musicale. Celentano si apre una strada, tipo un virus che c'entra nell'organismo con le sue canzoni, la sua voce, il suo modo di cantare e di porsi, e poi ci deposita dentro anche il pensiero. Stefano Morigi, ma quindi Grillo è un Celentano senza canzoni? La persona che questo mese ha messo in crisi la politica italiana è un celentano senza canzoni. In qualche senso sì, penso che Labranca abbia piuttosto ragione su questo punto. Pensa che Grillo fino a un po' di tempo fa finiva i suoi spettacoli distruggendo i computer. Adesso ha costruito un partito sui computer. E allora chiediamogli ragione a questo, ma di questo come di altre cose. Grillo è un altro che ha l'ideologia dell'autenticità e della natura, quando insomma andrebbe un po' ripensata più nei fatti. Perlomeno Celentano ha la gloria di essere sempre se stesso da 50 anni. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, grazie Stefano Morigi e Tommaso Labranca. A domani.